E so che alcuni di voi non volevano ascoltarci anche stavolta, però siamo qui per la seconda puntata del podcast di D-Location 2.0. Nel frattempo il collettivo ha cambiato nome. Si chiama RDM. DM. La I è muta. Cioè, in che senso la I è muta? Come Django. Non parla. No. Se avete mai trovato una I che parla... Ha un piccolo handicap. Povera. Però è povera. Qui con noi, il fatto è che non abbiamo il video ancora. Se non aveste capito, questo è D-Location 2.0, noi siamo in Redeem per l'appunto. Cappello alla regia, Zazzone, Pisani e Silvius, che non si vogliono presentare oggi ai microfoni. Silvius è di ritorno da una settimana sì, un po' complicata. In che senso? Nel senso... Sono stato a stretto contatto con le scimmie sulla spiaggia. Non è stata una bella esperienza. Scimmie sudate, sì, assolutamente. Piene di sale, luride. Ho letto che in Madagascar lavano le patate. Hanno appreso a lavare le patate nell'acqua di mare per renderle più saporite. Notizia verissima questa. Soprattutto a proposito di notizie, le daremo anche durante l'edizione di questa puntata del TG1 Vale 1, ma ne parleremo dopo. Noi vorremmo aprire... Non è ancora l'ora? Sì. No, ne parliamo dopo. Quello che volevamo dire per iniziare questa seconda puntata è che molti di voi che ci hanno seguito nella prima puntata hanno sentito una notizia molto molto triste che abbiamo dato, era la seconda di Repubblica. Sì. Ebbene, passati i giorni, noi ricordiamo... otto giorni, sembra ieri. Sembra ieri, invece è già passata una settimana dalla morte del cane Chaos. Je suis Chaos. Dopo aver lanciato la campagna Je suis Chaos, volevamo informare in realtà tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando che Chaos non ha preso parte ai salvataggi di Amatrice, non ha mai salvato un cazzo di nessuno, ma soprattutto... e quindi noi ora pretendiamo solidarietà per Chaos. Non è che se uno salva qualcuno deve essere per forza idolatrato, cioè, e soprattutto non è stato neanche avvelenato. Questa è la verità. Io adesso voglio ogni giorno su Repubblica un necrologio per cani, cioè ogni giorno mi deve uscire un'edizione di giornale lunga 10.000 pagine con tutti i nomi dei cani stronzi che muoiono investiti sulla statale 16. E cavolo, dai, come morti sul lavoro. Non si parla mai di morti sul lavoro, non si parla dei cani morti sulle autostrade. Un minuto di silenzio per Billy. Ma voi ve lo immaginate il giornalista il giorno dopo che gli hanno detto: oh coglione, hai scritto una valanga di inchiostro su un cane che è morto. Così. Vabbè, insomma, io volevo dire che a questa notizia il mio cane ha avuto un po' una crisi mistica, sì, e ha deciso un po' di dedicare una novena l'altro giorno a Chaos, che è stato corretto, insomma, è venuta questa crisi mistica, insomma Chaos è diventato un eroe, un po' il nuovo messia dei cani, e quindi ha un liberaci dalla brambilla. Messia, scusate. Pungente. E su questo cosa potevo dire? Mi hai bloccato su quello che era in realtà una battuta seria che avevamo scritto. Però io la porto avanti perché the show must go on. Perché questo? Perché abbiamo preso Chaos? Perché dedichiamo anche noi una novena a Chaos, dicendo: liberaci dalla brambilla. Bau. E c'è cose di Location, una cosa per indire tu. Reaching to a black mass. Puppy, questo era un pezzacchione, Protest dal 2004. Posso fare una domanda? È più forte il pezzato o il pezzacchione? Il pezzattacchione, una cosa bestiale, ho raggiunto l'idea. Vabbè. Oggi siamo prettamente simpatici, devo dire la verità. Sarà che noi non ci siamo ubriacati ieri sera. Esatto, siamo un po' più frescori. Ci stiamo provvedendo ora. Sobrio marcio. Non c'è nessun problema. Ieri sera. Sì. Sono stata alle 5. Perciò tu hai anche lavorato oggi. Anche o meglio, lavorato. Vabbè, lavorato per allora, modo di dire. Un solidissimo articolo 18 pre-Jobs Act. A proposito di articolo 18, io farei partire la sigla della nostra rubrica Gigi la frottola. Piccolo sei, oh, Gigi, rotondo un po', oh, Gigi, ma se tu vuoi sei un cerbiatto, lo so, ah, ma come fa, oh, Gigi, dimmelo tu, oh, Gigi, col tuo pallone. La tua città ti chiama già Gigi la frottola. E questa è la nostra sigla, questa nostra nuova rubrica Gigi la frottola. Perché questo? Perché in settimana la notizia clou è stato un po' il voto alla Camera del nuovo decreto come dignità, come tu non ti senti più degno, la tua vita non è migliorata da mantenere. Mi sento proprio di una dignità unica, la respiro addosso la dignità. Tu Pisani? Sì, io sono andato a comprare pasta alla crema con gran dignità. Impacchettate, povero, 5 euro ma con gran dignità. Punto, usata e gomme nuove. Assolutamente, sempre con gran dignità, soprattutto quando andate a fare la spesa. Mai dimostrare all'altro di essere meno degno di ricevere quello che il governo ci sta dando in questo momento. Perché Silvio, spiegaci bene. Lasciate di lavorare. È semplicemente successo che il reddito di cittadinanza lo erogano in dignità. Cioè, quindi il re diventa la dignità di cittadinanza. Ah, così, basta, punto. Sì, punto. Soldi... No, niente, semplicemente no. Soldi zero. A vederne zero. Niente. Taglia le tasse, sì, ma per i ricchi. E quindi flat tax con reddito di cittadinanza, misto frutta con... Avete frainteso, c'è stato un misunderscemo. Cioè, quel lasciate di lavorare era lasciate il lavoro. Esattamente. Ah, esattamente. Siamo scemi noi come al solito. E quindi niente, si è stato votato in pompa magna con soltanto i voti, mi sa, degli amici di Leu. Sì. Si sono, diciamo, i nostri tre amici di Leo, quelli che sono rimasti in Parlamento, che sono Fotel e U. Cioè, quelli sono, che non ci sono di più, che appunto si sono opposti timidamente a questo decreto, ma in realtà è passato con tantissimi voti, soprattutto da parte di quel Movimento 5 Stelle che col Gigino diceva un po' di tempo fa qualcosa così: noi il Jobs Act lo vogliamo abolire. Crediamo che sotto i 15 dipendenti non serva l'articolo 18 delle imprese, perché in quel caso le imprese sono a conduzione familiare o sono a conduzione di imprenditori che prima di essere imprenditori sono anche dipendenti, i dipendenti fanno parte di questa famiglia, per il resto vogliamo ripristinarlo. E loro volevano ripristinarlo, a quanto pare, questo articolo 18, che invece tante a quanto pare... Non, 3 non milioni di persone in piazza. Vabbè, non no, è ma, stato... Ma Mattato, guarda, se la tua azienda è sotto dei 15 non dipendenti, non hai diritto ai diritti, insomma, diritti. Ho capito, però diciamo o tutte le aziende a questo punto sono sotto i 15 dipendenti in Italia, sto parlando come Cannavacciuolo oggi, però, cioè, oppure c'è cioè, un po' di diritti, un po' di odori anche integrale. L'idea sarebbe quella di frazionare la Fininvest in 10.000 aziende da 15 dipendenti l'una, perché è giusto valorizzare il valore locale, il lavoro della tua terra, i profumi delle piccole e medie imprese. Sì, direbbe Cannavacciuolo. Bravo, insomma, questo era un po' quello che era il Movimento 5 Stelle. Guarda, saranno cambiati i tempi. No, in realtà, c'è stata la Lehman Brothers, c'è stato il 2012. In realtà, quando era? In realtà era solo febbraio. No, sì, cioè, febbraio. Ragazzi, non è che fosse così tanto tempo fa, però le cose cambiano. I tempi della politica sono rapidi. Soprattutto per i nostri amici agricoltori. Che al di sotto delle aziende, dei 15, devono essere pagati anche in voucher. Certo, perché in tutto ciò il voucher non è stato assolutamente eliminato come metodo di pagamento, anzi quasi quasi lo rivalutiamo. Tutto ciò per dire cosa? Caro Gigino, questo messaggio per te lo diamo col cuore, te lo diciamo. Gigi, Gigi però fermati un po' al vitalizio di un po' no. Nico Cappello per risvegliare in noi queste memorie. La tagada. I D-Lazy, questa era Hideaway 1995. Io gli so gli anni, ricordiamo, per chi non ci avesse ascoltato magari alla puntata precedente. Perché Nico ci manda la scaletta. Assolutamente, altrimenti non ci ricorderemo mai. Anche perché questo pezzo l'avevo sentito 4-5 volte dal barbiere quando ero bambino. Ricordate quell'atmosfera di 90 dei barbieri? Tu sei il mio barbiere, Radio Gamma, sempre su Radio Gamma sintonizzato. Sì, ma infatti nel tempo della canzone mi è cresciuto un mulet dietro. Per chi non sapesse cos'è un mulet, a parte Vabbè, adesso googlate, vaffanculo. Però attenzione, provate a googlare. Ok Google. Sei un po' trimone. Aspettiamo i tempi di risposta del cellulare di Pisani. Sei un po' trimone. Mi cade Google. Vabbè, tornando alle cose serie, in realtà provate, questa è la prova che lanciamo, la sfida che lanciamo a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, provate a chiedere al vostro assistente Google sei un po' trimone e vedete cosa vi risponde. Sì, poi considerate che siamo ancora nel 2018 e nonostante un po' la linea temporale rispetto a Terminator sia sfalsata, Skynet non è ancora al potere, quindi potete insultare le intelligenze artificiali senza che queste vi squartino. Queste citazioni da nerd comunque, io le amo. Io ci riprovo. Ok Google. Niente, non vuole sapere nulla. Si vede che non sono al potere. Fa l'offeso. Comunque, a proposito di barbieri, da Alfonso ci andavano anche due nostre vecchie conoscenze. Ossia? Sia il nostro grandissimo esimio presidente Conte. Giuseppe Conte. Conte. Chi? Conte. Prima è stato esonerato, poi è diventato presidente del Consiglio. Ah, Conte. Il presidente del Consiglio del Chelsea. Ah, adesso ho capito tutto. No, no, non mi era chiaro perché l'ex non è... presidente del Consiglio. L'ex presidente del Consiglio. Ora mi è chiaro tutto. Quindi vanno lui e. È il presidentissimo presidente degli Stati Uniti d'America, Trump. Ah. Grab them by the pussy. grab them by the butt in questo caso, perché le nostre fonti ci dicono che. L'incontro che c'è stato questa settimana fra il presidente del Consiglio italiano e il presidente del presidente quella cosa lì, diciamo, quella cosa lì degli Stati Uniti d'America, delle cose che si è consumata una bellissima e felicissima storia d'amore. Oh Dio, sì. Non mi dire, come mai? Questo è gossip internazionale. Esattamente. Dopo essersi scambiati i primi pompini, cioè circa l'accoglienza sui migranti, certo, su quello è l'argomento clou in questo momento. Clou. Il signor Conte ha promesso il chilo a Trump sì? se ritira tutti i finanziamenti alla non so che cosa. Che finanziamenti? A chi? No, niente, volevo dire che non che doveva ritirare il progetto per la TAP. Cioè, doveva arrivare là. In tutto ciò, parlato di TAP, hai lanciato quasi una palla, un assist riguardante appunto quello che è un altro argomento molto molto caldo in questa settimana, tanto caldo sicuramente come la questa birra su questo tavolo in questo momento. Io sto sudando. Degustazione che ho preso ad Eurospin. Molto molto buono, devo dire. Una Fink Brown e una Perlenbacher che consigliamo a tutti gli ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Una birra che ti invoglia a pensare. Think brown, appunto. Perché dicevamo questo? Caldo perché si parlava di TAP, si parlava di TAV. C'è un personaggio, un sempre concentrato lui, l'ipnorospo Toninelli, che un giorno dice no, vabbè, è una opera completamente inutile, non bisogna farla. Dopodiché lo chiama Giorgetti a casa dicendo: ma che cazzo stai dicendo? Questa TAV bisogna farla. Esatto, il giorno dopo poi dice: no, guarda, eccetera, eccetera. Insomma, in fine dei conti, entro settembre la linea TAV Lione-Torino si farà. Passerà dalla cucina di Toninelli. Appunto. Dentro, direttamente. Cioè, tu praticamente devi cuocere gli spaghetti. Metti il tuo carico di spaghetti, 200 grammi, nella pentola. Sì. Alle ore 14 passa il treno della televisione in cucina, distrugge il tavolo. Amore, sono pronti gli spaghetti. E allora consigliamo a Toninelli: meglio un ambiente unico. Oh, questo era Chase the Devil, The Eagles of Death Metal, dal recente 2006, inaspettatamente. Capello, che è successo? Ti avevano scongelato prima. No, no, in realtà mi sono bloccato un attimo perché di solito rientro io, però l'abbiamo lasciato presentare a te perché ti volevi far crescere per un periodo il mistazzone, il baffone, il baffo da latte, sì, da bambino, tipo che il cantante degli Eagles of Death Metal. Tu non parlare, guarda che su di te potremmo dirne tantissime. Ritorniamo per piacere. Oh, ritorniamo con le notizie. Ora c'è qualcosa che noi volevamo dire in realtà. Una sorta di disclaimer. Esatto. Okay, perché qualcuno ci potrebbe accusare di fare satira, bravo, attaccare sempre una parte politica, che poi è quella al momento al potere, nonostante si vestano di una... Che cazzo che così, la satira si fa contro i poteri. Tuttavia, non abbiamo nessun problema a dichiarare che anche il leader dell'opposizione, Giancarlo Magalli, fa un programma di merda per 5 ore ogni giorno. Esattamente, esattamente. Esattamente sì. No, vabbè, io volevo dire a tutti gli amici a casa, noi scherziamo, molti di voi potrebbero sentirsi urtati, e se vi sentite urtati non ci hai fatto un cazzo in realtà, esatto. Quindi andiamo avanti. La prossima volta, il prossimo... spalmatela piano. Prossimo 4 marzo andate al mare vestiti, farà freddo, ma fate altro. Ok, parlavamo sempre di quelle che erano le notizie di questa settimana, perché poi noi arriviamo la domenica per approfondire tutto quello che è successo in questa settimana. In questa settimana c'è stato una notizia, più che altro una notizia non di questa settimana, proprio di stamattina. Di stamattina, proprio fresca fresca, perché facciamo un salto fuori da quelli che sono i territori nazionali europei anche, sì, andiamo dall'altra parte del mondo, andiamo in Sud America. C'è stato un attentato a Maduro, o meglio un presunto attentato a Maduro, forse un vero Maduro a morire. Insomma, Maduro a morire, sì, sì. Anche qui un paese con un programma dell'opposizione molto, molto presente. Noi vorremmo semplicemente raccontarvi quella che è la notizia ora, poi fregarcene completamente, esatto, e parlare di un'altra cosa, però sempre riguardante un fatto nostro che diciamo vorremmo condividere con voi. Repubblica intitola Venezuela. Il fumo tra i palazzi di Caracas dopo l'attentato a Maduro. Insomma, la Colombia, a quanto pare, secondo il Maduro stesso, ha cooptato, come si dice, sì, insomma, ha cospirato con gli Stati Uniti d'America per lanciare un attacco con un drone, sì, della Fisher-Price su Maduro. Sì. Secondo me, con 7 razzi hanno ferito la zampetta del cane il presidente della Colombia, del cane di Maduro. Presidente, sì, della Colombia, Donaldo Trump. Esatto, è Donaldo Trump. E quindi questa è la notizia. Ora insomma, le conseguenze potrebbero essere molto pregnanti, soprattutto per i consumatori di una certa sostanza, panico a Manhattan. Esatto. Perché una nube di polvere bianca e fumo. C'è un problema. Ci saranno un po' di problemi. Voglio dire, pensate al Venezuela, pensate che c'è chi sta peggio di noi, che da una parte c'è il turbo capitalismo, dall'altra parte c'è questi caudigli del cazzo che portano l'inflazione a 6.000%. Okay. Vabbè, questa diciamo è la notizia e l'abbiamo data. Noi invece volevamo parlarvi di un fatto che riguarda più i cazzi nostri. Esattamente. Perché poi fondamentalmente, diciamo la verità, sempre pesanti a fare questa satira, noi invece vogliamo parlarvi, come fanno un po' i grandi speaker, le grandi radio nazionali, dei cazzi nostri. Perché ci ricolleghiamo a Maduro? Perché una persona di nostra conoscenza, una nostra amica, una nostra conoscente, un'analista politica, nome inventato, utilizzeremo Luisa, che appunto è totalmente inventato, che rifiutava i volantini al liceo. Sì, assolutamente, sì. Rifiutava qualsiasi volantino al liceo. Noi tre già cazzullavamo nei collettivi studenteschi, ma più che altro per scoparci le ragazzine. Ora le donne all'ascolto non prendessero questo come qualcosa. Ma io sono sicuro che anche le donne all'ascolto facevano i collettivi per scoparsi i ragazzini. Non prendiamoci per il culo. L'unico problema erano quelli con le giacche di velluto a coste, con le toppe sulle gomme, a 15 anni. Erano già sindacalisti da CGL, esatto. A 15 anni. E di solito finivano quelli come la suonare la chitarra davanti al falò entro tutti gli altri pubblici. E noi campeggi studenteschi. Dopo questa serie di stereotipi che fanno buttata lì, noi diciamo focalizziamo la nostra attenzione su questa, appunto, nostra amica Luisa, che mi veniva in classe principalmente con me, mm-hmm, e la quale ovviamente non si è mai interessata di politica. Durante le classiche assemblee di istituto era la prima con Gioia, Vogue, Vanity Fair in mano, aperto, gira la moda, insomma, non si è assolutamente mai interessata di tutto quello che la circondava. incluse anche le materie, perché non approfondiva, lei imparava completamente a memoria i testi proprio. Potevi chiedere, è un metodo, sì. Mi diceva, Luisa, parlami, Luisa, parlami della rivoluzione d'ottobre. Non lo sapevo, pagina 128, ah, evoluzione d'ottobre, quindi era così. Ma è un metodo che porta direttamente al 4 marzo, esatto, 2018, esatto, insomma. Quindi cosa succede? Questo metodo porta ora a status di Facebook fortemente critici, fortemente critici, pesantemente, sì, politici, nei confronti di un governo che non è neanche il suo. E infatti noi una mattina, svegliandoci, aprendo, diciamo, la nostra pagina Facebook sul cesso, come facciamo ogni mattina, per appunto, abbiamo trovato un post che citava Maduro, vattene. E già immagino il segretario concitato che ha spalancato le porte. Presidente, abbiamo una emergenza. È da Luisa che è. Luisa in Italia è in cassara nera. È muy critica. E infatti non è un caso che da quel momento non si è più fatta viva sull'infosfera. Quindi secondo me i servizi segreti venezuelani hanno pesantemente reagito a questa provocazione. Liberate Luisa. Un nostro appello di Rockation chiede ai servizi segreti venezuelani: liberate Luisa. I've been the one to party until the end, looking for the after party to begin. I'm going down to La La Land. I hope to see you soon in La La Land. Something about those little pills, unreal, the thrills they yield until they kill a million brain cells. Something about those little pills, unreal, the thrills they yield. La La Land. I hope to see you soon in La La Land. Something about those little pills, unreal, the thrills they yield until they kill a million brain cells. Something about those little pills, unreal, the thrills they yield until they kill a million brain cells. La La Land su The Rockation, un album del 2001 questo, cappello. E Nico si sta sempre più svalutando, come Bobby Le Mar. Infatti, perché tornando un po' al discorso di prima, sì, e sì, dicendo sì, anche che, diciamo, la buona Luisa avrebbe ragione se solo sapesse di cosa stesse parlando, diciamo. Dico, sì, allora io appena sento parlare un po' di Venezuela, di queste cose di inflazione, il Warren Buffett che in me si sveglia. Ma ne parleremo magari, ti lasciamo il tuo spazio dopo, perché su Google, sul... Sì, esiste un convertitore, esatto. Insomma, tutti quanti, basta che scrivete Google Converter, avrete un convertitore di moneta. E insomma, se io dopo dovessi decidere di riprendere a fumare, sì, dopo tanti anni, e dovessi andare al tabaccaio e prendere un pacchetto di sigarette, lo pagherei a Caracas 1.198.478,08. Cioè io vado con il mio buon sacco di juta pieno di moneta e dico: mi scusi buon uomo, mi dia un pacchetto di sigarette. Se non che il buon uomo in questione dovrebbe chiamare l'autotrasporti da dietro, aprire il suo camion pieno di carta straccia e darmi il resto, perché ovviamente io verrò con la banconota da 5 milioni. Per questo diciamo avremo un po' è un di po' la situazione. Perché parlavamo di monete, perché parlavamo di valute, volevamo collegarci al blocco precedente per poi ricollegarci a quella che adesso la rubrica che andrà in onda, che tutti aspettavano e che tutti ci hanno richiesto. Come tutti sapete, Pisani oramai è entrato nel mondo delle criptovalute e vi darà grandissimi consigli. Beh, l'angolo del Bitcoin di Pisani. E questo è il momento dei non consigli finanziari. Dovete sapere che dal 20 agosto in Venezuela circolerà una nuova moneta, il Bolivar Soberano. Non so se vi ricorda un po' sovrano, sovranista. Niente, forse è stata solo un'assonanza. Che prenderà il posto del Bolivar Fuerte, togliendo 5 zeri al Bolivar Fuerte, che aveva già tolto 3 zeri al Bolivar di prima, quello dei sacchi di juta per comprare sigarette, che sarà ancorato al petro, la criptovaluta emessa dal governo venezuelano. Ricordiamo, presidente del Venezuela, Gigino, dice Augusto Pinochet, ancorato al petro, che è ancorato al prezzo del petrolio, che non riescono a vendere perché hanno l'embargo degli Stati Uniti. Quindi il conte Mascetti gli fa una pippa. Questa supercazzola significa che il petro, che è la criptovaluta venezuelana, ha lo stesso valore del Bolivar Soberano, e se riuscite a comprarlo e siete sovranisti, compratevi il petro a questo punto, visto che il Bitcoin in Venezuela è vietato. Di location. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see about that. Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day. Todd, this is Liquid, ring-a-ding-a-ding. I want those 3 Brand Van tickets, man. What do you think? Todd, there? Slide, man. Slide. Yeah, mighty thirsty, alright. I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-wrong fool, Julie Numa. Here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way. We did nothing, absolutely nothing that day. And I say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? I got the fever for the flavor, the pay that would have laid, but still I'm in a fix. Yeah. And the girls on the bus kept on laughing at us. We rode over on the town down to Venice again. Firing up the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie. Yeah, right. But we did nothing, absolutely buckets that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? With my mind on my money and my money. See them all bitching by the bar, above the fine line between the rich and the poor. They might turn to me and say, what you think we got done, son? We found the conclusion. And I guess that's something. So I asked you, what the hell am I? thirsty, all right. Brown Van 3000 o Brown Van 3000. Oh, bella, Brown Van 3000. Una roba proprio molto anni 90 questa. Drinking in the Lane, infatti era il 1997. O Drinking in là. In là. Non in qua, Drinking in là. Là. Più là. Era quello che ci diceva sempre la signora del piano di sopra quando alla villetta facciamo troppo casino bevendo le giovane, birre. Giovane, drink in là. Là. Oh, piccola soluzione del quesito che avevamo posto qualche blocco fa, sì, su Google. Avevamo detto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di provare a dire al proprio assistente Google, sei un po' trimone, girate il vostro apparecchio radio come le soluzioni della settimana enigmistica e sentite questo. Ok Google, sei un po' trimone. Non mi trovi d'accordo, però penso anche io che se il cloud avesse l'umer sarebbe una piccola berry. E ve l'avevo detto che era vero. Io spero che i nostri signori e padroni metallici, quando prenderanno il potere, mi risparmieranno. Insomma, uno scenario post-apocalittico, quello che si prospetta davanti a noi, visto che le risposte delle macchine sono queste. Ma è già cominciato lo scenario post-apocalittico. Sì, ma se apocalisse deve essere che sia nucleare, perché siamo preparati. Abbiamo visto un sacco di Kenshiro. Abbiamo un Sidecar, una cresta, leccare un'ascia, ce la facciamo. Il problema sono le macchine. E quello è il punto. Cioè, come cacchio fai a sconfiggerle, Pisani? Cioè, non hanno i punti di pressione. la domanda che pone per esempio Beppe Grillo: quando i computer saranno più intelligenti di noi, sì, cosa succederà? Dicelo tu. Non lo so, che Tonino e lì mettiranno a stampare. Yeah. California Uberal essere il 1978, allora erano i Dead Kennedys, questa è The Rockation 2.0 e noi siamo sempre, chi siamo? Coglioni. Redeem. Redeem, Redeem. Cappello alla regia, Pisani e Zazzone e Silvius ai microfoni e... Volevo dire che Dead Kennedys è stata la mia password per anni. E soprattutto spero che nel 2019 ci sarà una cover band di Dead Kennedys che si chiama Ted Salvini. Ma soprattutto che la password del cantante dei Dead Kennedys sarà Pisani. Pisani. Gello, se ci ascolti, cambiami ogni settimana. Ovviamente ricordiamo che per chi volesse riesumare i profili di Barry Knight di Pisani, quella è la password. Quindi insomma, abbiamo dato un'informazione utile. Forse sono stato bannato. Se volete cuccare nel 2002, sapete come fare. Back to the future. Comunque, è piaciuta tanto l'altra volta, diciamo, la nostra piccola rubrica dedicata ai consigli per le ragazze. Sì. Perché diciamo questo? Perché tra di noi, diciamo, quello che ha i capelli più lunghi sei tu, Silvio. Certo. Quindi, quello che ha i capelli. Quello che sono. Soprattutto quello che mira, io perché io me la cavo ancora, diciamo. Ma a me è un'altra questione, tu ce li hai distribuiti. Vabbè, non apriamo questa parentesi, ne parleremo un'altra volta. Ci sarà sei come tempo. L'1% che guadagna di più. Esatto. Quindi l'angolo dei consigli delle ragazze, il nostro cappellone di fiducia, Silvius. Ciao ragazzi, e anche quest'anno l'angolo dei consigli delle ragazze è per voi. Per voi che credete che una informazione maschile sia diversa da informazione femminile. Oh wow! Wow, che bello! Dai, questa partiamo. Settimana per voi i 30 anni di Federica Pellegrini. Oh. Abiti, capelli, tatuaggi, l'evoluzione del suo stile libero. Oh wow! E quest'anno soprattutto c'è una grande notizia che riguarda tutti quanti noi. Quale? Il matrimonio dei reali d'Inghilterra. Oh mamma, io mi sono emozionato tantissimo. Meghan Markle ruba la scena alla sposa nel giorno del suo compleanno. Oh, wow. Che affronto, ragazzi. Mamma mia, però con quel fisico può mettere qualsiasi vestito. Madonna beata lei, ragazzi. Sì, come cazzo dobbiamo fare con questo? Ma cos'è? Ma cos'è? Vedo un'altra notiziola tanto carina. Sì, una notizia soprattutto che non solo è specifica per le nostre ragazze, che non gli piace niente, per niente la politica alle ragazze. No, lo no, sai. No, assolutamente. Gli piacciono gli smalti alle ragazze. Non devono assolutamente fare politica alle ragazze. Devono interessarsi solo agli smalti, soltanto alle notiziole del gossip, soltanto al Grande Fratello, soltanto ai reality. Le quote rosa ci piacciono soltanto in televisione. Esatto, Temptation Island e i tronisti di Maria De Filippi. Prego. E quindi questa notizia che non solo ci piace soltanto le ragazze, ma sì. Ci piace soltanto perché è il 5 di agosto. Oh. Cosa ci piace questa settimana? Il look da montagna da portare anche in città. Oh mamma mia, che emozione! E ma per soprattutto... ultimo e soprattutto l'angolo della scienza per le ragazze. Oddio, c'è anche la scienza per certo. Le ragazze. Ma non le bruciavano le ragazze che facevano la scienza sì. Una volta? Torneremo a farlo. Nel 2018 anche le ragazze non hanno diritto alla scienza, no? E allora parliamo di scienza di ragazze, per le ragazze e con le ragazze. Dopo sole, perché utilizzarli e a cosa servono? Just the fascist. 1996, loro erano i Babylon Zoo. Babylon Zoo. Babylon Zoo. Si diventava lo zoo a Babylon Zoo. Noi ragazzi del Babylon Zoo. Zoo di Berlino, diciamo. E niente, si parlava prima, ovviamente, adesso parecchi di voi possono pensare, anzi parecchie di voi possono pensare, avete fatto il blocco prendendoci in giro, siete soliti uomini, pensate, vivete di stereotipi, di tutto, parlate solo di stereotipi. Ma non stavamo prendendo in giro le donne, ma i prodotti per le donne. Esattamente. E dunque, perché non pareggiare Pisani e non parlare... Prodotti inutilmente per uomini. Perché ci sono, e sono tantissimi, e diciamo riempiono completamente sempre, ogni giorno, gli scaffali delle nostre... E costano 2-3 euro in più, cioè, a partire dal deodorante. Perché sono per uomini. Perché se no sei una checca. Esatto, certo. Esatto, mica bravo. Ti puoi mettere il deodorante bianco, no. Devi prenderlo blu o grigio. O un semplice cotton fioc unisex. Ma ti sembra unisex un cotton fioc? Sono mica frocio. Ma questo è rosa sopra. Cosa vuoi? E quindi... How to tell time like a man. La pubblicità degli orologi. Come leggere l'ora come un uomo. Le 7:15. Sputando magari a terra, sì. Tabacco che ho masticato prima sul mio Mustang. No, stavo dicendo un'altra cosa, ma andiamo avanti. Quali altri diciamo che altri prodotti? Fantastici prodotti. Il Pepsodent White Now for Men. Ora un dentifricio per uomo. Sbiancante per uomo. Ma perché non sia mai, come diciamo, non sia mai utilizzare il dentifricio di a tua moglie o della tua compagna. Lo sbiancamento dentale e non lo sbiancamento anale. Esatto. Altri prodotti? Gendered marshmallows. Scusate, no, marshmallow. Calma, ragazzi. Marshmallow. Questo lo voglio. Ok, perché? Cosa all'aeroporto di Amsterdam ci sono i marshmallow Little Princess e i marshmallow Tug Guy. Giustamente, perché il marshmallow è in sé. Checca. Esatto. Quindi bisogna incoraggiare. Questi uomini, capito, che hanno questa crisi del gender. No, ma sarei anche interessato a vedere quale vende di più, diciamo, anche per capire un campione di persone che possono comprarlo. Anche perché direi che il gay certamente non va a comprare, ma poi non so, poi dei gustibus, poi si va a comprare quello blu, no, per comprarsi quello rosso, si compra anche quello blu, non lo so. Ma può comprarsi quello che cazzo vuole. Non siamo il ministro Fontana, può fare quello che vuole. Altro prodotto per chiudere? C'è un banana boat for men. Cos'è il banana boat? Tripla difesa. E un... una protezione solare per uomo, per attenzione, se donna non funziona ti scotti. Uomo che sei a casa, compra anche tu un prodotto unisex, non sia mai ti venissero le irritazioni. Con sombrero, el viento radioactivo. se non l'avete ballata nelle migliori trash siete degli stronzi e delle stronze, così non facciamo anche qui gender. Questi erano i Righeira, ve lo spieghiamo, eravamo alla playa, eravamo al 1983, soprattutto Pizzani. Come dicevano i Righeira, ci sono momenti in cui è il momento di tirare una riga e andare avanti. Negli anni 80 i Righeira ne hanno tirate tante. Questa è ancora di Rockation, se non aveste capito, noi siamo sempre i Redeem, c'è sempre il cappello. Ho un po' sete, Silvio. Sete? Passa una birra da uomo, Silvio. Certo. Una birra. Birra. For men. Tieni la birra for men. Perché se fosse sintonizzato soltanto ora, non è vero, state sentendo un po'. Questa trasmissione può contenere comunicazioni... Non ce l'ha fatta. Vabbè, lasciamo perdere. Perché si fosse sintonizzato ora, volevo dire a tutti, invece non è vero, perché in realtà stanno sentendo il podcast, come esatto, fanno a sintonizzarsi quindi. Ora. Però se avesse skippato involontariamente, diciamo, perché non volevate sentire il pezzo precedente, siete ritrovati in questo blocco. Il blocco precedente abbiamo parlato di prodotti for men. Quindi noi stiamo bevendo una birra for men, una Think Brown. Non è mica una Corona Extra. Una birra for man. Vabbè, e questo per dire che insomma molti uomini spendono tanto per prodotti per la loro igiene personale, anche for man, quando in realtà forse il pH di una donna dovrebbe essere un po' più delicato del nostro. Dovrebbe essere for man. Il pH di una donna. For men. Vabbè, dai. Siamo finalmente arrivati all'angolo nazionale popolare. Ecco, appunto, parlando di nazionale popolare, dobbiamo, come voi sapete, diciamo, dirvi che sì. Nell'ultimo periodo possiamo tornare a dare delle notizie, dopo un'ora di puttanate. Esatto. Fammi fare un sorso della mia Think Brow con un'acciuga nella canna. Dicevamo, torniamo a parlare delle notizie. Come sapete, Salvini sta spingendo sempre di più, diciamo, il nome di Foa, di Marcello Foa, che oramai a quanto pare è diventato il presidente del CDA. Anche se sinceramente non lo si vede più da una settimana, perché ha preso una barca e si è imbarcato per andare a vedere se prima o poi cade dalla trapiatta. per dare la notizia in onda mentre cade. I giornalisti seri vanno sul posto, esatto. Si consumano le scarpe. Pisani, bravo Pisani, vedi che uno che ha studiato scienze della comunicazione lo sa. Preso dunque, 30. Cazzo. Due volte. E quindi torniamo alle cose serie, siccome diciamo il TG nazionale è condotto oramai da gente di spessore, giornalisti di spessore, noi vogliamo dare la linea al nostro TG media partner, certo. Il TG 1 vale 1. Benvenuti al TG 1 vale 1, nella nuova edizione le notizie che nessuno vi darà mai, perché non sono vere. Il ministro Fontana chiede lo sterminio degli ebrei e la nuclearizzazione del Molise. Di Maio controbatte severo, non è nel contratto di governo. Vaccini, spaccatura nel governo tra chi teme l'autismo e chi pensa che anche se con orari di merda e coi bus che prendono fuoco sia sempre un posto visto di tutto rispetto. Costume e società, Paola Taverna un po' pazza un po' strega, andiamo a scoprire i segreti della pietra di luna e come camminare scalzi dipenda dai commessi dei negozi di scarpe. Alla domanda ha bisogno di qualcosa? Potrete rispondere una doccia. Location. Machine serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Every- Mrs. Honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California. Featuring Dr. Dre, California Love 1996, anche spazio all'hip hop, quello nigga bello. All'hip-hop. Come? Ma perché? Tu l'hai detto. All'hip hop, ah. All rap. No, perché non ho capito una parola di quelle che hai detto negli ultimi 5 secondi. Te ripeto, vai. Tupac. Featuring Dr. Dre, ok, California Love 1966. Ma chi è sto featuring, okay, che suona in tutte le canzoni? Non lo so, comunque 96, deve essere molto famoso. Deve essere uno veramente famoso, un artista emergente. Noi lanciamo sempre artisti emergenti. Un appello a tutti gli artisti emergenti che ci stanno ascoltando: se volete passare i vostri pezzi, noi siamo disponibili. Come facciamo un appello anche alla Think Brown, che stiamo bevendo in questo momento e apprezziamo più dell'altra, come si chiamava? La Perlenbach. La Perlenbach, che costa pure 2 centesimi in più. Esatto, quindi, cari amici a casa, comprate una Think Brown For Men. Man, perché comunque è gusto fresco e gusto estivo, non limone sia acciuga, assolutamente sì, gusto forte. Ma diciamo la Think Brow, siccome non ci abbiamo soldi e comunque penso che avrete bisogno di degli uomini immagine, dei come possiamo definirci, dei promoter, insomma degli imbriaconi che bevono la vostra birra, la sponsorizzano e volete pagarli, noi siamo qui, anche perché bisogna andare in cassa. E a proposito di piatto che piange, apprendiamo ultima ora: il figlio di Bin Laden si sposa, la moglie è figlia di uno degli attentatori dell'11 settembre. Moglie buona dei paesi tuoi, ma soldi non ne stanno. Non fate arrivare la partecipazione. Per guarda, a me mi hanno invitato per la mano. Ora non so se questa 50 euro la devo dare. Meglio che per i fuochi d'artificio. Esatto. A quanto pare la lista nozze è fatta sotto l'armeria, quella che sta a Bari. Là l'hanno fatta. Attico a Torre Vellotta? Vabbè, notizia una bomba questa, diciamo, che figlio di Bin Laden al si volo sposa. Al volo, auguri, auguri al figlio di Bin Laden, tante care care cose. Abbiamo altri argomenti, cioè, di Bin Laden, Laden figlio di... Vabbè ragazzi, cioè... Vabbè, vedo crocifissi. Sì, diciamo che la scuola italiana è davanti a un bivio. Ora, per la serie Debunking solo su The Rockation, noi abbiamo, diciamo, una notizia di quelle che, diciamo, i post che piacciono tanto a Pisani, in realtà, perché dalla pagina Pisani leggere i post dei grillini per sentirsi persone migliori. La scuola italiana è davanti a un bivio: cosa rendere obbligatorio fra le due opzioni? E il sondaggio classico che noi proponiamo a ogni puntata, oramai classico, siamo alla seconda puntata, ora è già diventato classico. Non ti importa. Preferite l'obbligatorietà del vaccino o del crocifisso? Ora, io sono un po' scettico sinceramente su questa cosa. Perché, caro? Sì. Innanzitutto perché i vaccini sono chiaramente un complotto della lobby funebre. Questo, diciamo, non c'è dubbio, anche perché... Ora mi dovete spiegare, no? Scusa un attimo, sì. Ma poi senza crocifisso in classe, i vampiri... E come che li ammazziamo? Non è che uno si può permettere baffi. Però sei vaccinato. Però sei vaccinato. Però conta il vaccino contro i vampiri. Non lo so, l'ASL lo passa soprattutto. Amici a casa, parliamone insieme. Esatto. Perché ricordiamo che non serve la scienza, basta informarsi. Ne parleremo. Come le bambine informate. Esatto, ne parleremo nella prossima puntata con ospiti il professor Burioni e il mago Terma. Un po' l'appellativo che negli anni 90 si utilizzava a scuola media per il proprio amico di banco, ma era simpatico. Per quelli che lanciavano le uova. Esatto. A proposito, A proposito di uova, la notizia della giornata, anzi della settimana, sì, però è ancora oggi una notizia che fa tanto discutere, è il famoso lancio delle uova che c'è stato nei confronti della, adesso non ricordo bene il nome della, dell'atleta, Daisy Osuke, tanti diciamo attacchi razzisti che ci sono stati, adesso sono un po' serio, diciamo, un po' di serietà, tanti attacchi razzisti che ci sono stati negli ultimi giorni. Sparano su chi è la pelle più scura, irruzione nei centri di accoglienza. Ma sì, ma ne combinano di più e di meno. Oggi, di crude. L'ultima notizia voleva che un marocchino di 43 anni nel Veronese è stato picchiato selvaggiamente ieri ed era iscritto alla Lega Nord. Questo diciamo. Non sto scherzando. Vabbè, il karma. Il karma. Blu su blu. Friendly flag. Fuoco amico. Ma nero più nero fa bianco. Dov'è che questa cosa? Vabbè, detto ciò. Comunque i Divo vengono citati anche in Watchmen, volevo dire. Ah, bello, grazie. Mettiamo musica di grande livello, grazie anche alla regia del nostro cappello. Che rima. Va bene, dicevamo, tornando alla notizia di cui parlavamo, sì, Daisy Suke, l'atleta che per fortuna, diciamo tutta e tutti, sarà presente la prossima settimana, diciamo, ai campionati europei di atletica. Sì, per fortuna ha avuto il via libera dal medico per partecipare ai campionati mondiali. Potrà partecipare, quindi non è stato, diciamo, un danno tanto grave, però il gesto comunque resta. Cosa è successo? Durante, non so, una festa di paese, cos'era, una serata? Ma semplicemente la Osuke si stava ritirando a casa, sì, quando era buio, e si stava ritirando in una delle vie che di solito erano frequentate dalle sex worker, sì, e chiamiamole così, esatto, perché è giusto così che si devono chiamare sex worker, sì sì. E international, anche come un'auto di post adolescenti che non pensavano di utilizzare il loro tempo al meglio, divertendosi in questa maniera, ovvero prendere delle uova e lanciarle sui passanti. Oh. Così, poi se erano donne e avevano la pelle più scura della loro, era sicuramente più divertente. Cosa è successo? Che tutti hanno gridato l'attacco razzista, ovviamente, cioè, è chiaro che ti viene da pensare subito, è un attacco razzista, sì, cioè, al clima creato, al clima che si è creato in questi ultimi giorni, al fatto che comunque ci sono stati, come dicevamo poc'anzi, molti attacchi a migranti sia nei centri d'accoglienza ma sia per strada, ma anche migranti irregolari. Certamente. Che erano presenti qui con tanto di documento, molto più di alcuni italiani che il documento neanche si ricordano di andare a rinnovare, tipo me, ho la carta d'identità scaduta. Però a parte questo, se sei un migrante devi rinnovarlo ogni 3 mesi. Esatto. Questo è, diciamo, è il senso. Nella questura della quale ti avevano fatto la prima volta, quindi se tu decidi di girartene per l'Italia devi tornare, non so, a Padova. bella questa, grazie Pisani per l'appunto. Cosa è successo? Che si è venuto a scoprire che uno di questi ragazzi che hanno gettato le uova contro l'atleta Daisy, contro la ragazza, era il figlio di un dirigente del PD. E sti cazzi! E allora il PD! E allora il PD! Perlomeno possiamo dire che le uova saranno state sicuramente da gallina arrivate a terra. Esattamente, esatto. Peace. Ready to Go era il 1996 e voi siete sempre all'ascolto di Derocation 2.0. Noi siamo il Redeem. Niente, mi piace tanto rientrare così. Però non funziona più così, radio di merda. Ma no, no, invece Redeem. No, Redeem, Redeem, ma perché sono momenti tristi. Redimimi. Oh, anche Redimimi. Redimimi, mimiamoci. Avete altre notizie per deliziarci? Perché io veramente sono completamente sprovvisto, poiché la mia connessione va e viene, ma suppongo anche la vostra. Ma il 5 agosto che notizie vorresti avere? Ma le notizie che possiamo dare è che parliamo di pallone un po'. Pisani, vatti a fare un giro. Ragazzi, vabbè, ma sei anticalcio, lo sanno tutti. Ma c'è il poster di Platini. Come poster di... un giocatore esordiente anche in questo caso. Guarda, ai giovani. Guarda, senti, al fantacalcio per la prossima asta ti consiglio Cafu e Roberto Carlos, soprattutto. Calcio, che sono preparato. Okay. Maldini torna al Milan e sembra Bobo Vieri. È vero, comunque, abbiamo visto alcune foto. La buona notizia per chi tifa Milan, e quindi anche per quella merdina che è il nostro ministro dell'interno in questo periodo storico, è che Maldini ritorna come sorta di responsabile dello staff, sarà il responsabile della strategia futura del Milan. Cosa è successo al Milan in quest'estate? Il Milan è stato protagonista di un'esperienza, ecco, su questo Pisani potrebbe rientrare, perché quando si parla poi di finanziamenti, no? C'è questo Berlusconi che è un imprenditore, ma forte. Berlusconi non ha più il Milan, Pisani. Vabbè, ma tanto sappiamo tutti che il capitale del Milan con Young Gun Lee era gestito in Bitcoin, quindi, non è che... quindi rientra tutto nell'angolo del Pisani. Quindi c'è stato un cambio di assetti da dirigenza del Milan. Il Milan ha cambiato, diciamo, proprietà dai cinesi, come Yong Jing Jing, ha un Yong fondo Jing-mo. Speculativo, insomma, soprattutto a me, insomma, il nuovo presidente, il famosissimo Scaroni. Tante storie con Scaroni. Insomma, diciamo che c'è una certa continuità. Si continua sempre. Io da buon milanista anche lo dico, perché soprattutto nei fondi offshore. Perché non fanno una criptovaluta? Vabbè, perché mi compro 0,5 Champions League. È difficile poi comprarsi Cristiano Ronaldo, capito? E quello diventa un po' problema. Perché poi quando devi fare la plusvalenza, tu mi insegni, Pisani, il cambio. No, per fare, sto dicendo termini a caso. Il cambio tra... Devi aspettare l'halving del 2020 per vedere. Cosa ti ha detto l'halving? Che cos'è? Halving Superstar, halving rock and roll. Pick up on this. Salt and Pepper Pachette 1986 di Location 2.0. Siamo sempre qui con voi a tenervi compagnia con le notizie che forse non volevate sapere, ma che invece vi diciamo lo stesso. Che non fanno orario continuato di domenica. No, non fanno orario di continuato. Abbiamo notato oggi, prendendo le birre, che l'Eurospino non fa orario continuato. Questa cosa ci è dispiaciuta. Sì, ci è dispiaciuto molto, però l'ipotesi era che i lavoratori che sono giustamente sfruttati dalla mattina alla sera in vendita sono stati spostati in produzione calpestando i luppoli per la Finkbrau nella benzina agricola. Da notare che citiamo sempre la Finkbrau, perché chissà se ci ascoltano, noi la meniamo. Noi, esatto, noi possiamo essere sponsor di quello che cacchio volete. Siamo pro marchette, non abbiamo vergogna. No, e soprattutto ripetiamo, la Finkbrau era molto meglio della Perlenbacher. Se... E soprattutto la Perlenbacher costa 2 centesimi di più, quindi preferiamo la Finkbrau anche per una questione di prezzo. Perlenbacher farà venire il mal di testa. Come un puzzone, vabbè. Per gli amici a casa, il mattoncino pugliesi, saprà cos'è un puzzone. Tragica, immersione tragica, morti a bordo, ma abbiamo una notizia proveniente dalla nostra pagina preferita, che è quella di riferimento, quella che diciamo la nostra, come dire, il nostro gazzettino ufficiale ogni giorno, ossia Paese Sera del 2018. Esatto, ossia Socialisti Gaudenti. Vai Pisani. Che annuncia: epidemia di poliomielite entro la fine dell'estate. Poiché Piero Fassino in un tweet ha detto: nella mia scuola elementare c'erano 5 bambini con la poliomielite. In quegli anni era malattia diffusa e grazie ai vaccini di Sabin e Salk milioni di bambini sono stati messi al riparo da questa atroce malattia. La salute dei bambini viene prima di tutto. Ora... cioè, scusate ragazzi, ora... Scusate, non so se riuscite a sentire forse voi... lo sfregolio. Esatto, perché forse voi ricorderete tutte quelle che sono stati i proclami di Fassino in passato, tipo... Beppe Grillo, faccio un partito e vediamo come va. Quindi è andata. Sappiamo come è andata. Se la Germania vince anche grazie allo Ius Soli, è andata anche quella. E vedremo anche se questa Italia andrà ai mondiali e vinceremo sicuramente i mondiali. Non è andata. E insomma, però Fassino, insomma, puntiamo al 15%. E invece è andata molto, molto, molto peggio di così. Insomma, sappiamo cosa ha fatto il nostro carissimo amico e compagno, viene da ridere a dirlo, compagno Piero Fassino. Abbiamo un'altra notizia, giusto flash, sempre tornando a quelle che sono le... Sì, insomma, parliamo sempre di vaccini come sapete, esatto. C'è una invettiva, una diatriba che va avanti da anni fra il paladino dei provax, Roberto Burioni, medico, virologo, infettivologo... Insomma, laureato in medicina, partiamo da questo presupposto. Medico. Okay. E le mammine Novax. Le mamme. Che in quanto mamme loro sanno cosa è giusto per il proprio figlio. E poi fanno morire i loro figli di pertosse nel 2018, come è successo purtroppo qualche giorno fa. Esatto. Comunque, ormai il dibattito, se così possiamo ancora chiamarlo, si è sposato su Facebook. La mamma Novax contro Burioni. So dove vai al mare, spero che affoghi. Scusa, ragazzi. Calma. Allora, se lei non sapesse dove Burioni va a mare, potrebbe lui affogare? Aspetta, questi... cioè lei dice solo dove vai al mare. Okay. La forza delle mamme è essere informate. Perché si informano sapendo. Esatto. Quindi solo dove vai al mare vuol dire no, attento. So dove stai. Quindi io potrei farti qualcosa. Ok. Spero che affoghi. Che cazzo? Come spero che affoghi? Lei pensa che grazie al karma può convogliare dei flussi acquei. Sì. All'interno della spiaggia della Dispoli, se la Dispoli è sul mare, non lo so, non ho idea. E influire con la sua novaxaggine anche i flussi marini. Novaxaggine mi piace parecchio. Sono anche lì. Ma poi tutti sanno che ci vuole almeno un ametista per fare queste cose. Esatto. E infatti, tutti, per questo motivo, tutti i medici prescrivono l'ametista ogni giorno. Solo dopo l'oroscopo di Paolo Fox. Camp where the thugs them camp at. 2 pound a weed in in a van back. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. The smell of the your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hard pork. Our sandals are not back to the thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot you unless you carry guns a lot too. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic, then them wheel and pop off and them start clap it. We dip in file long and it a beat rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Funny man a get dropped like a bad habit. Some a bad a post off if you don't have it. Rastafari stands alone. Welcome to Jam Rock. Hey, welcome to Jam Rock. Out in the street, they call it murder. Welcome to Jam Down. Poor people are dead at random. Political violence can't done. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings a call. Whole man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick with. Then them don't do nothing at all. Come on let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glocks so at them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them we run a roadblock wish for the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out of rounds, I broke back ratchet. Welcome to Jam Rock. South side, north side. Welcome to Jam Rock. East coast, west coast. Yo. Welcome to Jam Rock. Cornwall, Middlesex and Surrey, yo. Hey. Welcome to Jam Rock. Jamaica, Jamaica, no. Jamaica, Jamaica, yeah. Jamaica, Jamaica. Welcome to Jamaica. Damian Marley, welcome to Jam Rock. Questa era il 2005, questa canzone. Che cacchio lo doveva dire? Ancora rompe i coglioni. C'è gente nata nel 2005 che ora parla. Parla, scopa. Fa figli. Tante cose. Siamo arrivati all'ultimo blocco. Ringraziamo sempre Cappello per la sua selezione, che come i peggiori dei giornalisti fa leva sulla nostra nostalgia. Sei Tommaso Paradiso dell'underground. Io lo odio, ma non perché non ma mi non piace in sé. Tommaso Paradiso. Tommaso Paradiso. Perché sì. Lo ascolto, perché me lo ricordo. Il problema è ricordarmele le parole. Il punto del tormentone è proprio quello. C'è un mio amico che sta scrivendo tanti bei post di commenti di tormentoni. Io poi gli chiederò se è possibile leggerli in diretta, perché sono molto interessanti. Sì. Lui dà un giudizio dei tormentoni estivi. Magari per la prossima puntata ne potremo approfittare. Intanto vi devo un attimo prendere la linea, perché la redazione online del Corriere della Sera sì. ci sta informando di una notizia molto importante. Sì. Claudio Santamaria posta una foto hot con Francesca Barra, Instagram la rimuove. E dopo questa notiziona penso che abbiamo detto tutto. È la seconda puntata in podcast del Santa Maria. Scusate però, allora io volevo redazione chiudere però. Vabbè, redazione online Corriere della Sera. L'attore ha postato una foto di loro due nudi e abbracciati, leggermente sfocata. Sti cazzi. Il social ha cancellato il post e sti cazzi. Lui indignati. Vabbè. Scendiamo in piazza. Andiamo in piazza. Chiudiamo qui la puntata. Se vi è piaciuto, riascoltateci sempre sulle frequenze dell'Internet. Se non vi è piaciuto, potete riascoltarci, magari vi piaceremo. Dai Redim, Zazzone, Pisani, Silvius. E dalla regia del buon Nico Cappello. Un ciao a tutti e a tutti. Alla prossima. Ciao. Ciao.